Comics, fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko 103.1. Io sono Rachele Copparoni e benvenuti in questa nuova puntata di Fuji Comics. In questo grigio e piovoso 6 novembre vi auguro innanzitutto di nuovo un buongiorno e anche a me stessa, perché sono un po' così ancora addormentata, sarà per questo tempo, quindi mi sveglierò piano piano insieme a voi e insomma riprenderò anche un po' la voce, che è un po' provata dal mal di gola con questo tempaccio. Sesta puntata di Fuji Comics, vi ricordo già subito tutte le modalità con cui potete seguirci, sia dal nostro sito www.radiocittafujiko.it, oppure come sempre potete mandare un sms, un whatsapp o un telegram al 333 1809 494, oppure altrimenti se volete parlare direttamente con me medesima e cercarmi potrete trovarmi sia su Facebook come Rachele Copparoni, o altrimenti cercare la pagina Facebook del programma, che appunto si chiama Fuji Comics. Ma veniamo alla nostra puntata e iniziamo appunto con la musica. Quest'oggi non ci sarà un vero e proprio filo conduttore, un filo rosso che unisce tutta la playlist musicale scelta, perché sarà una puntata un po' più particolare, ci sarà una sola intervista ad un'autrice, mentre per quanto riguarda l'altro approfondimento sarà un po' più di inchiesta giornalistica, quindi Fuji Comics diventa anche non solo un format dedicato ai fumetti, ma anche un po' di inchiesta giornalistica. E quindi che dire, partiamo con la musica. È novembre, piove, quindi cos'altro potevo scegliere se non come prima canzone November Rain dei Guns N' Roses. E questo era appunto November Rain, anno 1992, terzo estratto dal terzo album dei Guns N' Roses, Use Your Illusion. Ma torniamo alla nostra puntata di Fuji Comics, questa sesta puntata. Innanzitutto parliamo un po' del menu, di quello che ci aspetta. Torna ufficialmente, ufficiosamente, il consiglio della settimana, il consiglio di lettura, questa nostra rubrichetta che occupa la prima mezz'ora di Fuji Comics, e quest'oggi il consiglio di lettura sarà gentilmente offerto da Antonia Caruso, una delle fondatrici della neonata Edizioni Minoritarie, di cui abbiamo già parlato la scorsa puntata. Se vi siete persi qualcosa, mi raccomando, andatevi a cercare il podcast sia sul sito della radio, quindi radiocittafujiko.it, o altrimenti anche sulla pagina Facebook di Fuji Comics. Successivamente avremo l'intervista con Francisca, nome d'arte di Francesca, una ragazza che è appunto un'attrice di più fumetti, e abbiamo un po' parlato con lei del suo lavoro, del ruolo delle donne nel mondo dei fumetti, insomma abbiamo un po' chiacchierato con lei. E successivamente, come vi anticipavo prima, Fuji Comics si trasforma un po' in così, in indagatrice, e abbiamo parlato con il collettivo Luca Crepa. Scusate, sono due giorni che mi dicono Luca Crepa e mi sono confusa pure io. E nell'ultima mezz'ora, quella un pochino più chiacchiericcia, vi parlerò un po' della mia esperienza di look, dei vari acquisti che ho fatto, della insomma situazione tragicomica che si è andata a creare verso la fine della giornata, e ovviamente immancabili gli eventi bolognesi per quanto riguarda le presentazioni di fumetti o di graphic novel. Ma continuiamo con la musica. Dopo i grandi capisaldi come i Guns N' Roses, continuiamo con un grande gruppo. Sto parlando dei Talking Heads, e vi farò ascoltare This Must Be the Place, che è anche la colonna sonora di un film, di un bellissimo film diretto da Sorrentino, che ha come protagonista Sean Penn, che appunto il film prende, cioè la canzone, scusate, prende il nome dal film, e quindi ce l'andiamo a ascoltare subito. La mia voce mi sta lentamente abbandonando, chissà se alla fine di queste due ore di diretta ne uscirò viva o meno. Tra l'altro fa un freddo infernale qua dentro, quindi speriamo bene per la mia voce e per la mia gola. Ma veniamo al momento del consiglio di lettura della settimana. Come vi avevo anticipato, quest'oggi torna in maniera ufficiale la rubrica del consiglio della settimana e a darci questo consiglio di lettura è Antonia Caruso di Edizioni Minoritarie. Vi rinfresco un po' la memoria. Chi sono Edizioni Minoritarie? È appunto una casa editrice indipendente di edizioni autoprodotte che ha scelto l'autoproduzione perché le permette di come dire, aggirare le lungaggini burocratiche, stare al di fuori dei grandi sistemi editoriali. Si definiscono una casa editrice antifascista, antisessista, antirazzista, autoprodotta, anaffettiva e transfemminista. Pubblicheranno, allora per ora hanno già pubblicato Non fissare di Percy Bertolini, come vi ho già detto più volte, e in futuro pubblicheranno coupon, guide sul concetto del consenso, una controguida, che sono molto curiosa di questa cosa qua, una controguida al fitness, alla forma fisica e al concetto di benessere, delle fanzine, antologie su scritti teorici e politici trans e almeno vorrebbero pubblicare un coloring book. I consigli di lettura di Antonia non sono stati né uno, né due, né tre, ma bensì quattro, quindi veramente un ampio consiglio di lettura. E è partita da Poco raccomandabile di Chloe Courchadet, spero di averlo letto bene, per poi passare ad un manga di Paru Itagaki che è Beastars, poi Crawl Space di Jess Jacobs, che tra l'altro è uno di quei fumetti che avevo adocchiato a Luca Comics e che poi alla fine ho deciso di non comprare, e per chiudere in bellezza, ultimo ma non sicuramente per importanza, Alan Moore con i suoi racconti di fantascienza. Ma andiamo a sentire direttamente le parole di Antonia e i suoi consigli di lettura. Il consiglio della settimana. Buongiorno a tutti, siamo qui con Antonia Caruso di Edizioni Minoritarie per presentarci un po' un consiglio di lettura della settimana. Ciao Antonia, bentornata. Ciao, grazie. Allora, che ci vuoi consigliare da leggere oggi? Ah, ne ho un bel po', diciamo. Allora, vorrei iniziare con un libro di Coconino Fandango, che è, diciamo, la quota gender dei miei consigli, che è Poco raccomandabile, di Chloe Courchadet, non so se ho detto bene il cognome, che è uscito ormai qualche anno fa, nel 2013, e parla di un uomo che non vuole andare in guerra durante la prima guerra mondiale e quindi usa un travestimento femminile per nascondersi, mentre lui vive con la sua compagna. Poi quando arriva la possibilità di non essere incriminato come disertore, decide di continuare con la sua nuova identità. È un fumetto molto bello perché è scritto molto bene e non è mai banale, è preso da una storia vera, e i disegni sono molto molto belli, anche la costruzione delle tavole, dei personaggi è molto molto dinamica, e magari in altri lavori della stessa autrice sono un po' meno interessanti, ecco. Okay. Poi volevo consigliare un manga di cui ho letto solo il primo volume, si chiama Beastars, uscito per Panini quest'anno, ed è ambientato in una scuola in Giappone, però tutti i personaggi sono degli animali umanizzati, per cui ci sono tutti i rapporti, diciamo, tra i personaggi, che sono comunque dipendenti dalla loro specie, quindi ci sono i carnivori, ci sono gli erbivori e c'è il protagonista che è un lupo che deve fare i conti, diciamo, con la sua natura carnivora nei confronti, e deve convivere con questi erbivori. Poi io non so come andrà avanti, ho collato solo il primo volume che è uscito a marzo, cioè inizio anno. Poi un altro consiglio è un fumetto di Alan Moore, un po'

E abbiamo appena ascoltato Regina Spektor, cantatrice e pianista made in USA, ma in realtà è di origine russa. E questa era You've Got Time, e molti di voi l'avranno riconosciuta probabilmente perché è la colonna sonora della sigla di Orange is the New Black, un telefilm prodotto da Netflix che io me lo sono guardato tutto dall'inizio alla fine e mi è piaciuto veramente tanto. E tra l'altro non sarà l'unica colonna sonora di un telefilm di Netflix che è inserito nella playlist di oggi. Io vi lascio con un po' di pubblicità e noi torniamo successivamente per la seconda mezz'ora di Fuji Comics. Detto che Franziska è stanca di pregare, tutta notte alla finestra aspetta il tuo segnale. Quanto è piccolo il suo cuore, è grande la montagna, quanto taglia il suo dolore, più di un coltello, coltello di Spagna. Bandito senza luna, senza stelle, senza fortuna, questa notte dormirai col suo rosario stretto intorno al tuo fucile. Tu bandito senza luna, senza stelle, senza fortuna, questa notte dormirai col suo rosario stretto intorno al tuo fucile. Ho detto che Franziska è stanca di ballare con un uomo che non ride e non la può baciare. Tutta notte sulla quercia l'hai seguita in mezzo ai rami, dietro il palco sull'orchestra i tuoi occhi come due cani. Marinaio di foresta, senza sonno e senza canzoni, senza una conchiglia da portare o una rete di illusioni. Marinaio di foresta, senza sonno e senza canzoni, senza una conchiglia da portare o una rete di illusioni. Ho detto che Franziska è stanca di posare per un uomo che dipinge e non la può guardare. Filo filo del mio cuore che dagli occhi porti al mare, c'è una lacrima nascosta che nessuno mi sa disegnare. Bandito senza luna, senza stelle, senza fortuna, questa notte dormirai col suo rosario stretto intorno al tuo fucile. Tu bandito senza luna, senza stelle, senza fortuna, questa notte dormirai col suo ritratto proprio sotto il tuo fucile. Yeah. detto che Franziska non riesce più a cantare. Anche l'ultima sorella tra un po' vedrà sposare. L'altro giorno un altro uomo le ha sorriso per la strada. Era certo un forestiero che non sapeva quel che costava. Marinaio di foresta, senza sonno e senza canzoni, senza una conchiglia da portare o una rete di illusioni. Marinaio di foresta, senza sonno e senza canzoni, senza una conchiglia da portare o una rete di illusioni. E non ci poteva essere canzone più azzeccata come questa di Fabrizio De André, che si chiama appunto Franziska, per presentare la prima ospite di questa puntata di Fuji Comics, il cui nome d'arte è proprio Franziska. La ragazza in realtà si chiama Francesca Casano ed è nata a Ronciglione anno 88. Vi volevo un po' presentare quest'artista. Francesca inizia sin da piccolissima a disegnare e il fumetto, insomma, fa parte da sempre, il disegno, il fumetto fa parte da sempre all'interno della sua vita, nel suo mondo. Infatti nel liceo entra a far parte del giornalino scolastico, per cui scrive delle strisce umoristiche che creava per fare un po' il verso ai professori più particolari, per prenderli un po' in giro. E la sua carriera, diciamo, di studi prosegue con una laurea in architettura, ma nel corso appunto di questa laurea in architettura si rende conto che ha un po' tralasciato la sua passione fondamentale, che è appunto quella per il fumetto, quella per il disegno. Così a 29 anni decide, anzi qualche anno prima, e poi a 29 anni conclude il suo percorso di 2 anni alla Scuola Internazionale di Comics e si diploma con il massimo dei voti e appunto inizia a comporre, a fare queste strisce umoristiche che praticamente pubblica nel web, e da lì in poi parte il suo successo, perché viene seguita da tantissimi fan e follower. E ci presenta in questa intervista che ho fatto il suo progetto editoriale, che è indipendente e autoprodotto, e si tratta di Il Principene Azzurro e La Principassera. Allora, è un nome particolare e vi lascio direttamente alle parole di Franziska, che ci spiega appunto il suo progetto, il suo lavoro e che cosa vuol dire per lei stare nel mondo dei fumetti. Siamo qua con Francesca Casano, in arte Franziska, per parlare del suo Principene Azzurro e della sua Principassera Disincantata. Innanzitutto buongiorno Francesca e benvenuta sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo un po' dal principio. Come nasce questa idea della creazione di questi fumetti, che in realtà inizialmente erano una raccolta di strisce umoristiche su Facebook, che raccontano appunto queste disavventure amorose un po' particolari, e appunto da queste strisce è nato un vero e proprio fumetto? Sì, io praticamente per gioco, per poter ridere, diciamo, delle disavventure che ci scambiavamo tra amiche, ho cominciato a fare delle strisce avendo, insomma, la passione di disegnare. Poi, visto che comunque era un periodo, quello, perché era l'estate del 2015, in cui andavano un bel po' di moda le strisce sul web, io mi ricordo che ho preso proprio spunto da Doodle Time di Sarah Andersen, con le sue semplicissime proprio strisce, semplici proprio da livello grafico, ho pensato proprio di creare una pagina dove, oltre a far sapere, insomma, quello che era, invitavo anche chiunque volesse raccontarmi la sua, in modo che poi lo trasformavo in striscia umoristica. Quindi è stato un esercizio, diciamo, di scrittura che per gioco ho iniziato e dal quale poi ho scelto di intraprendere questa strada del fumetto, perché poi io di formazione ho fatto tutt'altro, sono architetto, però poi da lì mi è venuta proprio questa irrefrenabile voglia di raccontare dal punto di vista femminile tante cose che, insomma, secondo me ancora non avevo trovato abbastanza in modo esauriente raccontata appunto in libri e fumetti, e quindi soprattutto in modo umoristico. E quindi da lì poi, dopo un annetto, anche durante il quale ho deciso di intraprendere degli studi per divenire fumettista, ho pensato appunto di fare proprio un fumetto. E vedendo che andava bene, il primo è stato sulla principessa della Disincantata, poi ho iniziato la serie, infatti quest'anno ho pubblicato anche il secondo, sulla principessa della Sdreale, e sarà una serie appunto di 7 volumi con 7 figure femminili descritte, 7 protagoniste, perché ho pensato come io mi raffronto con amiche, con persone che comunque sono molto diverse da me caratterialmente per le cose che ci accadono, ho pensato di fare lo stesso anche sui fumetti, per rendere insomma il tutto più realistico, perché la cosa più bella, diciamo, che mi è capitata di riscontrare tramite social è proprio il fatto che le persone, le ragazze, si riconoscessero in quello che scrivevo. Quindi raccontando fatti di altre in modo, diciamo, anonimo, ma diciamo anche generale, tante ci si riconoscevano, perché comunque appunto ci stanno, insomma, molte cose da dire, ci stanno. Certo, queste storie parlano proprio di disavventure amorose, diciamo, di problemi quotidiani quasi che le donne, ma non solo, devono affrontare appunto nella loro vita. E questi nomi così particolari, Principene, Principassera, da come ti sono venuti in mente? Allora, questo è per, diciamo, simboleggiare un po' la filosofia delle storie raccontate, del progetto, diciamo, in cui non si devono avere, non c'è bisogno di avere troppi tabù nel parlare di sessualità, se ne parla scherzando, in modo appunto ironico, e di conseguenza già con un titolo ho voluto subito sdoganare questa cosa. Cioè, non stiamo parlando di sessualità perché chissà che cose strane ci sono, ma nel senso proprio quotidiano e nel senso proprio umano, come quando si parla tranquillamente appunto tra amiche, quando si va a fare un aperitivo, una cena per aggiornarsi delle ultime disavventure. Quindi è proprio per dare molta familiarità, molta quotidianità al fatto, scherzandoci subito, problematizzando subito e storpiando le parole del principe, della principessa, che sono appunto i soliti protagonisti delle favole che, insomma, sappiamo e conosciamo fin da piccoline, che finiscono sempre allo stesso modo, che ci danno sempre un'idea un po' troppo alterata, insomma, della ricerca dell'amore vero e cose varie. Quindi proprio per concretizzare e andare a togliere sia tabù che le solite aspettative un po' troppo irreali, diciamo, delle solite favole che ci hanno raccontato fino a bambini. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. So when we found that we could not be make sense. Well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over. Che mi ha colpito molto è che c'è molta più nudità maschile e meno nudità femminile, un po' per sdoganare questa cosa che spesso è la donna, sia nei film, nelle serie TV, nei fumetti, nei manga, insomma un po' dappertutto, è spesso la donna quella che viene vista nuda. Sì, perché come ulteriore scopo ho anche quello proprio di puntare soprattutto sul pubblico femminile, che comunque è un pubblico che ancora nel mondo dei fumetti si sta facendo largo un po' a fatica. Quindi ho voluto dare di base un riscontro soprattutto al pubblico femminile, quindi emblema sempre di tutto questo progetto è questo personaggio del principe in azzurro, che è un principe sempre visto senza vesti. Ovviamente è visto nudo come è il Michelangelo di cioè una strada artistica eccetera, quindi non è nulla, è sempre perché appunto puntando su Zulina l'esplicito diciamo non serve, perché comunque si de parecchio insomma anche su faience e varie incomprensioni che possono accadere. E poi dopo perché diciamo anche con la nudità di Principene, che comunque è un personaggio che sia sensuale sia appunto buffo, è sempre per poter lasciare tranquille le ragazze a parlare di sessualità senza che ci sia troppa diciamo troppa apprensione riguardo questo tema. Cioè spesso nei social magari mi è capitato che raccontando, pubblicando una vignetta, magari ecco c'erano dei ragazzi che subito commentavano e puntavano al rimorchio subito, ah quindi questa è una che ci sta, una così, è pure per diciamo dire tranquilli, noi qui parliamo di sesso ma non per questo, non perché scherziamo su un successo, siamo costantemente alla ricerca di assolutamente nuovi partner, quindi è proprio per tranquillizzare, ecco. Sono diverse le protagoniste femminili, come dicevi tu all'inizio, e c'è qualcosa di te in queste donne che rappresenti? Allora, guarda, sicuramente in turchese, che anche diciamo esteticamente mi piace, perché anche io insomma porto i capelli dello stesso colore più o meno, ho riversato molto del mio carattere. Infatti lei diciamo è la principale protagonista, perché fa da filo conduttore, diciamo è colei che all'inizio gliene capitano veramente una dopo l'altra, quindi da lì poi viene fuori anche tutto l'entourage e viene presentato anche tutto il gruppo di sue amiche, ma anche ad esempio la nonna, che racconta la sua dal punto di vista di ragazza di una volta, diciamo. Quindi in turchese ho riversato parecchio il mio carattere, i miei pensieri, quindi sempre a livello ovviamente di onestà intellettuale in quello che racconto, senza andare troppo a raccontare i fatti miei, diciamo, certo, come certo. Non racconto i fatti diciamo delle persone alle quali mi ispiro per gli altri personaggi. Molte volte mischio, integro anche con racconti appunto che mi sono stati raccontati da persone che non ho mai conosciuto, che mi hanno scritto semplicemente sui social, che però appunto mi hanno colpito parecchio. Quindi faccio proprio un lavoro cercando di rappresentare le cose più significative e utili e sicuramente interessanti, ecco. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. Try to make it. volevo fare una domanda che è diventata un po' ormai quasi quotidiana per me quando intervisto artiste donne. Come essere un artista donna nel mondo dei fumetti, che spesso è considerato un mondo molto maschile? Le donne al massimo sono viste come illustratrici, autrici per bambini, quindi più in questo mondo più delicato, se possiamo definirlo così, delle illustrazioni, e meno in quello dei fumetti, anche se in realtà è una presenza molto forte quella femminile ormai che è all'interno del mondo dei fumetti. Come vedi tu questa cosa? Guarda, io diciamo che me la sono proprio complicata la cosa, perché poi, oltre a essere donna, appunto voglio parlare di argomenti scabrosi, tra virgolette, no? E quindi il progetto io all'inizio l'avevo ad esempio proposto a un bel po' di editori, però spesso mi è stato criticato addirittura il titolo stesso, nonostante fosse provocatorio appositamente. Quindi io personalmente sto facendo tutto, diciamo, da sola. Ho incontrato per fortuna però molte persone che hanno creduto in me, a parte insomma quelle che mi seguono sui social, però diciamo che io vedo, ma proprio ultimamente, una buona apertura nei confronti appunto delle professioniste donne in quest'ambito. Però è ancora un po', bisogna insomma aprire ancora un po' di più. C'è da lavorare. Io ovviamente, sì, io ovviamente ho un po' nel lato appunto dell'indipendenza, dell'autoproduzione, che a maggior ragione diciamo un po' più complicato, però ecco, ci sono comunque figure che adesso stanno facendo un sacco successo, come l'altra volta appunto ad esempio che parlavi di Zuzu, insomma per fortuna cominciamo ad avere una buona rivalsa, diciamo. Speriamo. E dicevi proprio tu che le tue sono autoproduzioni. Com'è possibile acquistare i tuoi fumetti? Dove ti troviamo? Allora, i fumetti sono in vendita su Amazon, cioè sì, appunto per adesso ho pubblicato i primi due, per il prossimo anno ho anche fatto un calendario di Principane in cui do più spazio a lui, perché comunque le protagoniste dei fumetti sono le ragazze, le principessere, invece lui, diciamo, l'ho un po' più a livello storico, l'ho un po' più trascurato, quindi gli ho fatto anche un calendario. Però ecco, i fumetti sono anche distribuiti in fumetteria, grazie alla Pan Distribuzione, che quindi la distribuzione dei panini, qualsiasi fumetteria insomma lo può trovare nel catalogo e ordinare per chiunque voglia. E poi sui social mi trovate sia su Facebook che su Instagram, dove appunto poi ci sono i link correlati all'acquisto del fumetto online. Sono riuscito a cercare insomma Principane oppure Franziska Comics, in particolare per Instagram. Me, the links that I will go to, the you took the bomb. Fuji Comics, fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Eccoci qua, siamo tornati in diretta, ore 11:36, prosegue questa sesta puntata di Fuji Comics. Abbiamo appena ascoltato Il mondo prima dei Tre Allegri Ragazzi Morti, gruppo di Pordenone nato nel 1994. Mentre tra le parole di Francesca abbiamo ascoltato Gotye con Somebody That I Used To Know e successivamente, come vi avevo appunto anticipato, un'altra colonna sonora di un telefilm, di una serie TV prodotta da Netflix. Sto parlando della Casa di Papel e appunto questa era la sigla di My Life Is Going On. Tra l'altro questa canzone mi è venuta in mente proprio perché al Lucca Comics era presente un padiglione, uno stand della Casa di Carta, e c'era una fila incredibile, infinita, e non ho capito bene per quale motivo, perché in teoria dentro questo padiglione c'era semplicemente la ricostruzione della zecca che insomma vanno a rapinare durante le prime stagioni, e quindi non ho ben capito quale fosse questo grande interesse. Se qualcuno di voi per caso ha fatto quella fila infinita ed è entrato dentro il padiglione della Casa di Carta, mi faccio sapere, perché non ho capito bene che cosa c'era dentro, se c'era magari qualche attore, quindi per quello era così affollata. E mentre prima della pubblicità abbiamo ascoltato Iren con Losing My Religion. E continuiamo ancora con un pochino di musica, ci ascoltiamo i Red Hot Chili Peppers con The Adventure of Rain Dance Maggie. someone drug me that wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just I turn around and we go. Continuiamo a parlare del Lucca Comics perché, sebbene sia finito domenica, continua abbastanza a far discutere. E parliamo di Lucca Crepa. Mentre ero appunto sabato 2 novembre all'interno dei padiglioni del Lucca Comics, mi sono imbattuta nel volantinaggio di questi ragazzi che appunto distribuivano questi volantini in cui spiegavano che cos'è il Lucca Crepa. Innanzitutto è composto da cittadini lucchesi, studenti, lavoratori, ma soprattutto ex dipendenti di Lucca Crea, che è appunto l'azienda che gestisce, che organizza il Lucca Comics. E il nome Lucca Crepa proprio deriva da questo gioco di parole tra Lucca Crea, quindi l'azienda che organizza il festival, e la crepa che si è andata a creare nel corso di questi ultimi anni all'interno del Lucca Comics. Infatti dal 2013 ad oggi, quindi da un po' di anni, nonostante ci siano sempre più persone che si recano a questo festival, infatti quest'anno penso che abbiano raggiunto il numero massimo, un record di biglietti venduti, il prezzo del biglietto è aumentato, è arrivato a costare a 22 euro, ma l'incremento degli introiti e dei benefici portati da l'evento rimane solo, diciamo, in tasca agli amministratori e a, appunto, Lucca Crea, l'azienda che organizza il festival. E abbiamo avuto la possibilità di parlare con Marco Pisani, uno dei referenti del Lucca Crepa, e appunto ci ha spiegato un po' nello specifico la situazione dei lavoratori all'interno di questi 4 giorni in cui l'intera città si trasforma. Abbiamo parlato dei felpati, di ragazzi e ragazze che lavorano appunto con questa felpa distintiva addosso, di quanto vengono pagati, dei guardiani notturni, di quanto anche loro vengono pagati, di quali servizi possono usufruire lavorando all'interno dell'evento. Abbiamo parlato di alternanza scuola-lavoro, insomma di tutto quello che accade in quei 4 giorni all'interno del Lucca Comics and Games. Sentiamo direttamente le parole del referente di Lucca Crepa, Marco Pisani. Tutti, siamo qui con Marco Pisani, uno dei referenti di Lucca Crepa. Innanzitutto, che cos'è Lucca Crepa? Ciao, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato, Rachele. Lucca Crepa è un movimento di dipendenti, ex dipendenti, cittadini e a questo punto direi anche di editori che hanno riscontrato un problema, una grande manifestazione che è Lucca Comics and Games. Noi siamo principalmente lucchesi, viviamo questa manifestazione da tanti anni, da quando siamo bambini, e abbiamo riscontrato la problematica riguardo ai compensi per quanto riguarda i centinaia di lavoratori che da anni e anni permettono lo svolgimento di questa manifestazione. Abbiamo deciso di unirci, abbiamo cominciato a sentirci, ad organizzarci dal 2018, da novembre 2018, quindi un anno fa, al termine dell'edizione 2018 di Lucca Comics. Abbiamo intrapreso un percorso di dialogo tra di noi, di organizzazione, e alla fine siamo riusciti a mettere insieme questo movimento, Lucca Crepa, che è una parodia di Lucca Crea, che è la società che organizza Lucca Comics. Puoi darci qualche dato? Questi lavoratori che voi chiamate felpati, perché sì, hanno appunto questa felpa addosso del Lucca Comics, quanto effettivamente guadagnano lavorando lì? Il felpato dal 2018, quindi dall'anno scorso, guadagna 4,60 euro orari. Nel 2013 questa paga era di 7,50 euro all'ora, e di conseguenza abbiamo avuto un calo in pochi anni di quasi il 40% della paga netta. A ciò corrisponde invece una grande crescita da parte di tutta la manifestazione, da parte degli introiti, da parte dell'enorme giro di milioni e milioni di euro ormai che produce Lucca Comics. Abbiamo riscontrato una grossa contraddizione in questo, una crescita enorme per quanto riguarda la fiera, che si è sempre basata sul lavoro dei suoi centinaia di dipendenti, e al contempo un calo del 40% delle paghe di tutte queste persone. Questo ci è sembrato profondamente ingiusto, ma anche profondamente contraddittorio. Anche la situazione lavorativa appunto di questi ragazzi, perché principalmente si tratta di ragazzi e ragazze che lavorano, anche venendo a Lucca ho visto, sì, anche la loro situazione di, non so, i pasti, i servizi igienici, tutto quello che riguarda, insomma. Beh, da questo punto di vista un felpato non è trattato diversamente da un qualsiasi visitatore che si reca a vedere Lucca Comics. Il felpato semplicemente non ha a disposizione un parcheggio dedicato, quindi dovrà organizzarsi come meglio crede, e i parcheggi ovviamente se si vuole venire in macchina sono per il 90% a pagamento, e non ha a disposizione né un pasto né un buono pasto, quindi anche per questo dovrà organizzarsi come meglio crede, e probabilmente un paio d'ore di lavoro, visti i prezzi durante Lucca Comics, non sono neanche sufficienti per pagarsi il pranzo. Certo. Il servizio igienico dedicato non esiste, quindi semplicemente il felpato dovrà fare con i mezzi normali che sono messi a disposizione della cittadinanza in quei giorni. E queste condizioni di lavoro sono complicate, molti sono ragazzi giovani, senza dubbio, molti sono ragazzi che sono anche alle primissime esperienze, e anche per questo ci sarebbe piaciuta da parte dell'organizzatore una maggiore chiarezza nella stipula dei contratti, dove non viene riportata la paga oraria. Noi abbiamo parlato con tantissimi di questi ragazzi, decine, a partire dalla firma del contratto, e ti dico, 4 ragazzi su 5 non avevano idea di quanto sarebbero andati a percepire. Ovviamente gioca anche l'inesperienza in questo, certo, in questo campo. I heard you know reazione degli organizzatori dell'evento? Ci sono state delle risposte? Ma guarda, inizialmente le risposte sono state molto fredde. Da parte dell'amministrazione comunale le risposte sono state veramente insignificanti, diciamo che della questione si sono occupati veramente poco, nonostante siano stati sollecitati anche da me in primis. Da parte di Lucca Crea ci sono state ovviamente delle prese di posizione pubbliche, si è parlato della loro impossibilità, poiché sono una partecipata comunale, di poter adeguare i contratti. Questo abbiamo visto che non è vero, perché c'era la possibilità sia tramite il bando di assunzione sia tramite un contratto aziendale che potevano stipulare di adeguare i contratti dei ragazzi. Non stiamo parlando solo dei felpati che prendono 4,60 euro, ma stiamo parlando anche dei vigilanti che prendono 3,40 euro, quindi loro prendono ancora meno, siamo vicini ai 3 euro orari nel 2019. Da parte di Lucca Crea ieri è arrivata una prima apertura, questo mi ha sinceramente dato soddisfazione, perché significa che hanno riscontrato anche loro un problema. Il direttore generale Emanuele Vietina, in un'intervista che abbiamo fatto in separata sede ma nello stesso servizio che apparsa sul Fatto Quotidiano, ha detto che ha individuato effettivamente le paghe non soddisfacenti negli ultimi 2 anni di manifestazione, che per l'edizione 2020 si cercherà di intervenire rivedendo il sistema di assunzione di tutti i dipendenti. Evidentemente anche dall'alto, anche dagli organizzatori, finalmente ci si è accorti che qualcosa non funzionava. Bene, quindi speriamo che per il futuro, per la prossima edizione, la situazione migliorerà. Beh, io sono molto ottimista su questo, sinceramente, che ci siamo mossi in tanti, ci siamo mossi in maniera chiara e abbiamo avuto un riscontro positivo enorme da parte di visitatori, da parte di editori, da parte di tutti i dipendenti con cui abbiamo parlato, i ragazzi che ancora non ne sapevano niente, a cui siamo andati a fare informazione e volantinaggio durante la fiera, e quindi io resto profondamente ottimista per il miglioramento di queste condizioni di lavoro per l'edizione 2020. Bene, spero anch'io in un miglioramento in positivo, ovviamente. Ti ringrazio tantissimo, Marco, per averci un po' delucidato sulla situazione, che è, insomma, l'altro lato della medaglia del Lucca Comics Gang Games, che è fantastico, però ovviamente insomma c'è l'altro lato della medaglia, che è questo, i lavoratori. Grazie a te per l'intervista e ti dico, noi proprio perché siamo cittadini lucchesi e amiamo Lucca Comics and Games, cioè insomma la maggior parte di noi che lo frequenta da quando era un bambino, vogliamo che non venga infangato, non venga intaccato il nome di Lucca Comics su queste questioni. Noi vogliamo che la nostra manifestazione resti il più dignitosa possibile per tutti quanti e che non possa essere infangata appunto da questioni di questo genere, che si basano anche sullo sfruttamento retributivo. Noi non permettiamo che il nome di Lucca Comics possa essere sporcato da queste faccende. Certo, perfetto, grazie mille ancora Marco per le tue parole e in bocca al lupo per il vostro percorso. Crepi, grazie. Grazie. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Surely it would. Baby, I E chiacchiere sui 103.1. Ed eccoci qua, torniamo in diretta, ore 12:02, prosegue, anzi giunge quasi al termine questa puntata di Fuji Comics, sempre con la vostra Rachele Copparoni. Tra l'altro nel frattempo è venuto fuori un sole che spacca le pietre, adesso ho caldissimo, mi sono levata il maglione, la sciarpa, tutti i mille travestimenti che avevo per il freddo polare di mezz'ora fa e ora c'è un sole veramente allucinante, poi uno dice che si ammala per forza. Ricordiamo ancora una volta tutti i vari contatti, a partire dal numero di telefono con cui potete mandare un SMS, un WhatsApp oppure su Telegram al 333-1809-494, ve lo ripeto magari un po' più lentamente, sono andata un po' veloce, vero? 333-1809-494 oppure ovviamente come sempre il nostro sito www.radiocittafugico.it, dove potete trovare tutti i vari articoli, interviste, i podcast o altrimenti su Facebook cercate Fuji Comics e trovate tutti i podcast delle puntate scorse se vi siete persi qualche cosa. Ma prima di tornare a parlare di Lucca Comics e della mia esperienza personale, la prima esperienza in questo evento, continuiamo con un po' di musica, con una novità. Sta per uscire il nuovo disco dei Subsonica, che si chiamerà Microchip Temporale, e celebra i 20 anni dall'uscita del loro celebre disco Microchip Emozionale. All'interno di questo disco sono inseriti tantissimi featuring, ve ne cito giusto qualcuno così, da Elisa, Nitro, Willy Peyote, Coez, Lo Stato Sociale, Mischeta, praticamente ogni canzone ha appunto un featuring ed è stata un po' riarrangiata, riadattata. Noi ora ci andremo ad ascoltare, appunto come anteprima hanno fatto uscire Aurora Sogna, con i Subsonica e i Coma Cose, che vi avevo già fatto ascoltare mi sembra la scorsa puntata, un paio di puntate fa, e sono questo duo adottato milanese composto appunto da un ragazzo e una ragazza e da Fausto Lama, se non mi sbaglio il nome, e lei, mentre il suo nome d'arte è California. Quindi ci andiamo ad ascoltare questa anteprima del nuovo disco dei Subsonica, Aurora Sogna. può sopravvivere. Allora sogna. Sogna una carne sintetica, nuovi attributi, un microchip emozionale. Sogna di un bisturi amico che faccia di lei qualcosa fuori dal normale. Se la nutrirà. Non crede nell'amore, in c'è molto semplice. Come si chiama questa voglia di vivere? Che nel suo corpo ha bisogno di espandere. Sogna una carne sintetica, nuovi attributi, un microchip emozionale. Adrenalina, sensori e cibernetica neurale. Sogna una carne sintetica, nuovi attributi, un microchip emozionale. Labbra cromate, ricordi seriali, emozione, nuovo impianto sessuale. E senza più mangiare, e senza più dormire, e senza più mangiare, e senza più dormire. Un'ora sogna, lì sulla soglia della sua casa, da un'ora sfoglia le pagine delle sue notti da cui scappa sempre. Fa luce ma per i suoi mostri non ci sono tende per ripararla, fuori brucia l'alba. Vorrebbe un cuore sintetico ma non ne parla. È un sangue che non è un fluido, è come battito un cortocircuito. Le stesse facce di ogni giorno fanno male, le stesse voci recitanti giudicare. Posa l'orecchio sul bicchiere e sente il mare, ma non il suono della musica che piace a me. Sogna una carne sintetica, nuovi attributi, un microchip emozionale. Sogna di un bisturi amico che faccia di lei qualcosa fuori dal normale. Sogna una carne sintetica, nuovi attributi, un microchip emozionale. Occhi bionici, più adrenalina, sensori e cibernetica neurale. Sogna una carne sintetica, nuovi attributi, un microchip emozionale. Labbra cromate, ricordi seriali, emozione, nuovo impianto sessuale. Sogna una carne sintetica. Devo dire che questa canzone mi piace veramente tanto, quindi sono contenta di averla inserita nella playlist di oggi. Ma torniamo a parlare di Lucca Comics e della mia prima esperienza come visitatrice di questo grandissimo evento. Allora, innanzitutto io sono andata in un giorno un po' sbagliato, perché era sabato 2 novembre, uno dei giorni in cui si sono venduti più biglietti in assoluto, essendo appunto il fine settimana e soprattutto un giorno di pioggia incessante. E poi sulla pioggia ci torneremo dopo, perché mi ha creato diversi disagi importanti. Tanti, vi dovrò chiedere un po' una mano, un aiuto al riguardo. Ho sicuramente capito che un giorno non basta, ci sarei dovuta rimanere molto di più, però come dire, avevo questa disponibilità qua di starci solo un giorno e quindi mi sono un po' accontentata. Vi consiglio già per il prossimo anno di organizzarvi un attimo magari le tappe, guardare prima quali sono i padiglioni che preferite, se preferite andare nella zona dei fumetti oppure in quella dei giochi, perché comunque sono padiglioni veramente grandi e bisogna starci il tempo giusto, cioè nel senso quanto uno veramente è interessato a un argomento piuttosto che un altro. Devo dire che ho fatto parecchi acquisti, ho scialacquato abbastanza i miei soldi, e però è giusto così, perché è una bellissima opportunità per conoscere dal vivo autrici e autori, da farsi autografare i propri fumetti preferiti, e quindi insomma è andata bene così, diciamo. ma veniamo un po' ai miei acquisti. Allora, innanzitutto, uno dei primi acquisti che ho fatto forse è dell'ultimo fumetto di GP, Momenti straordinari con applausi finti, nella speranza di potermelo fare autografare, ma ho scoperto successivamente che per lo stand della Bau bisognava prendere con anticipo un fogliettino che io ovviamente non avevo, con un numeretto come no, dal macellaio al supermercato, e io non avevo capito questa cosa, quindi purtroppo mi sono persa il fantastico acquerello di GP che faceva a tutti quanti, e con grande rammarico ho comprato il fumetto ma senza la sua firma. Invece bellissima firma con tanto di dedica e di speranza di rivederci magari in radio me l'hanno fatta i ragazzi di Ruggine, Francesco Vicentini Orgnani e Fabiana Mascolo, che sono appunto i due autori. Lui è autore dei testi e lei invece dei disegni di Ruggine, che ho comprato in edizione con la copertina in edizione variant speciale per il Lucca Comics appunto di quest'anno. Il fumetto parla appunto di una storia d'amore, il protagonista è Tullio, un universitario che dopo la rottura con la sua fidanzata storica si rinchiude un po' in se stesso per non soffrire più e spera che nulla potrà fargli più del male da quel momento in poi. E appunto ho avuto anche la possibilità di farmi una chiacchierata con l'autore e l'autrice, e sono stati veramente carini, mi hanno fatto un disegno meraviglioso che vorrei potervi far vedere. Altro momento molto divertente quando ho incontrato Marco Taddei e Simone Angelini, gli autori di Enrico. Vi avevo già parlato dell'uscita di questo fumetto nelle passate puntate, appunto con questo fumetto espandono l'universo narrativo di Anubi, e abbiamo proprio scherzato con loro, mi hanno fatto due dediche fantastiche, una a testa, e non so perché abbiamo continuato a ridere sul fatto che il mio nome Rachele facesse rima con candele, quindi è scritto anche nella dedica al fumetto appunto, e questa cosa mi ha fatto veramente ridere. Ultimo acquisto che ho fatto invece di Nero Vita, che è il terzo volume della collana di Mesogea Cartographic diretta da Elettra Stambulis. L'autrice si chiama Daria Bogdanska, è una fumettista tradotta per la prima volta in italiano proprio dalla casa editrice Mesogea, e racconta l'odissea dell'autrice che ha avuto da giovane emigrante polacca in Svezia. E la protagonista della graphic novel è appunto schiavizzata dal lavoro in nero, ma comunque decide di passare avanti questa cosa e passare un po' al contrattacco. Devo ancora leggere tutti questi fumetti perché sono stata un po' presa da questa puntata, ma veramente sono molto molto contenta. Altra cosa che non ho comprato lì ma che mi sono portata dietro da casa è il fumetto di Zuzu Cheese, di cui sempre vi avevo già parlato, e me lo sono portato proprio per farmelo autografare. Mi ha fatto un bellissimo disegno, anche lei è stata carinissima, gentilissima, l'unica cosa che si è completamente bagnato con la pioggia. Ho preso un acquazzone incredibile e la metà dei miei fumetti si sono bagnati, quindi io chiedo, faccio un appello come si fa in televisione, un appello a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici: se sapete, se siete a conoscenza di un modo per asciugare i libri, per farli assorbire l'acqua, perché soprattutto tutto il fumetto di Zuzu da metà pagina in giù è completamente bagnato, e io non so cosa fare, sono disperata, mi stavo per mettere a piangere sabato sera tornata a casa, e veramente fatemi sapere, mandatemi un messaggio al 333-180-9494 se avete qualche rimedio contro l'acqua che insomma all'interno dei libri. Ma basta con le chiacchiere, continuiamo con la musica, altro gruppo italiano, i Verdena, e questa è Valvonauta. E questi erano i Verdena con Valvonauta. Siamo giunti quasi alla fine di questa puntata di Fuji Comics, ma prima dei saluti finali ovviamente torna il nostro appuntamento con tutti gli eventi, tutti gli incontri, motivi di approfondimento bolognesi e non solo, anche dei dintorni, curati dal nostro Alessandro. Quindi sentiamo quali saranno gli eventi bolognesi che riguardano un po' la lettura di fumetti, la presentazione di graphic novel curata dal nostro Alessandro. Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Fuji Comics, io sono Alessandro e questa è l'agenda della settimana degli eventi legati all'illustrazione e al fumetto. Lunedì 11 novembre alle 18 Leo Ortolani presenta alla Feltrinelli di Piazza Ravegnana il suo Luna 2069, una graphic novel pubblicata da Feltrinelli Comics, realizzata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana e con l'Agenzia Spaziale Europea. Nel 2069, 100 anni dopo lo sbarco sulla Luna, esiste una base lunare in cui Ratman e l'astronauta Luca Parmitano si troveranno a fronteggiare qualcosa che potrebbe mettere in discussione sia la base sia il futuro dell'uomo nello spazio. A distanza di 2 anni da C'è spazio per tutti, Leo Ortolani torna a parlare di pianeti, satelliti e missioni spaziali, in un fumetto pensato per celebrare i 50 anni dal primo sbarco lunare. Ancora lunedì 11 novembre, un appuntamento al Cubo di Piazza Vieira de Mello alle ore 18. Mino Milano racconta la storia della redazione del settimanale Il Corriere dei Piccoli, che ha stabilito fin dal 1908 i parametri di lettura del fumetto in Italia, dando origine nel 1972 al Corriere dei Ragazzi. L'evento si colloca in una serie di incontri sul mondo del fumetto, di cui verranno ripercorse le origini fino agli esempi più innovativi che hanno lasciato impronte nella nostra cultura con le parole, le voci e le emozioni degli autori. Segnaliamo anche l'inizio di un corso di illustrazione dal titolo A illustrare le fiabe, organizzato dalla Confraternita dell'Uva a partire da giovedì 14 novembre. 5 appuntamenti a cura dell'arte terapeuta Patrizia Piccin, in cui attribuendo una veste grafica alle fiabe si indagherà il rapporto fra parola poetica e immagine. Il laboratorio si terrà dalle 20 alle 21.30, l'iscrizione è obbligatoria e non sono richieste ai partecipanti particolari competenze letterarie o artistiche. Questi erano gli appuntamenti della settimana, io vi auguro buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko. So hard, don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. E dopo questo meraviglioso pezzo di Moby, Natural Blues, finisce qui questa sesta puntata di Fuji Comics, quindi siamo giunti ai saluti finali. Io ringrazio innanzitutto tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici di Radio di Città Fujiko e ovviamente ringrazio anche gli ospiti di questa puntata. E che dirvi, sono qua irradiata da questo meraviglioso sole che è venuto fuori, quindi vi auguro una buona giornata, un buon pranzo e un buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Vi lascio con l'informazione di Iskra, il nostro giornale radio che si occupa di tutte le notizie dall'Italia e dall'estero, e poi ovviamente alle 12.40 con il nostro Last Minute, il contenitore di tutti gli appuntamenti culturali, musicali e cinematografici bolognesi. Grazie a tutti, un saluto da Rachele, ciao! Radio Città Fujiko 103.1 FM